Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. Va il microfono. E anche questo. Eccoci. Quindi non era il cavo. Forse era il mic allora. Chissà. Maledizione. Uno guarda il dito e non la luna forse. Quelle cose so. Là. Porte di Tannhäuser. Un po' in ritardo, ma ve lo diciamo adesso così subito siamo fresche di questa decisione. Dalla prossima la faremo sempre alle 9:30. Perché tanto lo facciamo comunque alle 9:30. Così saremo in ritardo di 4 minuti e non di 34. Esatto. Cioè in fondo è elementare, basta cambiare l'orario e cerchiamo di promettervi che non inizieremo alle 10. Ecco, bene. Chissà, vabbè. Niente, sì, perché in effetti la vita è così, è piena di vortici e quindi è inutile che ci diciamo che partiamo alle 9 e poi non ci riusciamo. Quindi, della prossima, segnatevi sulle vostre agende, Porte di Tannhäuser alle 9:30 circa. E lasciamoci più o meno. Sì, dai, almeno un po' di comporto, lasciamocelo. Quindi, benvenute intanto e benvenuti. Era un po' che non ci sentivamo e abbiamo deciso di partire un po' col botto con una trasmissione, una puntata che volevamo in realtà fare da tanto. Sì, sì, è vero. Era un po' che ci dicevamo. Era proprio dall'inizio in realtà che avevamo tirato nel mezzo, però poi mai approfondito realmente. Sì, parliamo di afrofuturismo stasera e in effetti c'è un motivo per cui non ne abbiamo parlato prima. Un po' perché in realtà c'avevamo mille altre cose, certo, di cui parlare. Però anche perché non è tanto facile trovare informazioni, reperire informazioni su questo genere. Ora noi proveremo un po' a approfondirlo, a dirvi quel che abbiamo capito, ecco. Però non è così semplice, non si trovano molto. Soprattutto il consiglio spassionato che vi diamo spesso, a maggior ragione adesso: non fidatevi di Wikipedia, perché è una tragedia. Cioè sull'afrofuturismo proprio no, non ce la fa. No, quello si può dire è che ci sono, io ho riscontrato diversi seminari sul fantastico, sul fantascientifico, però fatto da professori occidentali che parlano appunto del fantastico in Africa. Bello, certo, però sì, sono accademici, per carità, quindi hanno un rigore scientifico, quello che vuoi, ma fatto sta che io voglio sentirlo invece da loro. Da loro. E infatti facciamo un piccolo disclaimer iniziale, nel senso che ci sentiamo di doverlo fare, perché comunque della cultura africana di fatto non dovremmo parlare noi bianchi effettivamente, e quindi un po' ci sentiamo in imbarazzo forse a parlarne. Però è anche vero che in qualche modo cercheremo di schivare l'appropriazione culturale, nel senso che dall'inizio alla fine parleremo di una cosa che non, in qualche modo non ci appartiene, nel senso non fa parte, non è farina del nostro sacco in qualche maniera, e anche se poi insomma io sono per la razza umana, quindi certamente, certo che certamente farina del nostro sacco, però in qualche modo effettivamente sì. Cioè, c'è invece da sottolineare questa cosa, anche perché c'è un mondo enorme che ora sta uscendo, ne parleremo più tardi, delle pubblicazioni, soprattutto di libri, finalmente, non solo antologie, ma anche proprio autori e autrici, soprattutto africane. Poi voglio dire un'altra cosa, ragazzi, l'Africa è un continente. Eh sì, cioè vuol dire Africa, vuol dire nulla poi alla fine dei esatto. Però ecco, diciamo che noi, vivendo in Toscana, vivendo nel nostro piccolo orticello, ecco, sì, esatto, non vogliamo neanche correre il rischio di pontificare su cose che in fondo non sappiamo e che appunto sarebbe bene che uscissero da altre bocche. Detto ciò, siamo comunque interessate, molto interessate, sì, così molto, come quando abbiamo provato a raccontarvi la fantascienza e il mondo fantastico asiatico. Esatto. Ci interessa appunto anche scoprire punti di vista diversi, soprattutto quando non vengono raccontati e quando è difficile trovare. Quindi in realtà, proprio perché generalmente queste sono voci che trovano poco spazio, ecco, a maggior ragione su Radio Wombat ci piace parlarne. Quindi proviamo a dare una definizione? Sì. Allora, diciamo che si potrebbe l'afrofuturismo in qualche maniera definire l'immaginazione di futuri attraverso il punto di vista della diaspora africana. Diciamo una prima, questa può essere una prima macroscopica definizione. Intanto, quindi, parliamo molto spesso di letteratura, insomma, poi lo vedremo, comunque di cultura che non viene scritta o comunque prodotta in Africa, cioè da persone che, esatto, vivono nel continente africano, ma da persone che si trovano in diaspora, quindi che per qualche ragione, generalmente per migrazioni, per deportazioni varie, generazionali, si trovano da altre parti. Molto spesso, lo vedremo, si parla di letteratura o comunque di cultura afroamericana, altre volte comunque di persone di origine africana, magari che però si trovano in altri continenti, in Europa o in altri posti nel mondo. Non ci deve stupire, nel senso che l'afrofuturismo di base è proprio questo, cioè è il punto di vista di chi si è trovato nella diaspora africana. Ora, spesso l'abbiamo detto, di base, quando gran parte della letteratura fantastica, fantascientifica, che le abbiamo letto, che leggiamo, che ci piace pure, di fatto è scritta da bianchi, molto spesso, e quando immaginano il futuro lo fanno a partire dalla loro esperienza. Questo è anche comprensibile, anche giusto e anche, volendo, bello, però non possiamo negarci che è un'esperienza in qualche maniera privilegiata, che è intrisa di cultura coloniale, che l'abbiamo, cioè poi possiamo aver provato a decostruirla, possiamo aver provato a non solo a venirne a patti, ma anche a scardinarla, però di fatto da lì veniamo. E quindi tendenzialmente una cultura opprimente, oppressiva. Quindi c'è chi problematizza questa condizione in qualche modo di oppressori, ne ragiona, e quindi ne ragiona in modo critico, e spesso è quella letteratura di cui parliamo. Però il punto di vista di fatto è quello di una cultura generalmente che è dominante, che non ha problemi a uscire fuori, che non ha problemi a trovare voce, a trovare ascolto, che viene pubblicata, di cui si parla moltissimo. Almeno in certi momenti, ecco. Oh, ecco, ci sono i classici, nel senso che parlano, no? Come si chiama? Conrad, sì, The Heart of Darkness. Sì, sì, Cuore di Tenebra. Cuore di Tenebra. Sì. E quindi in realtà, come dire, sono dei punti di vista che noi amiamo anche molto e di cui parliamo e continueremo a parlare, però non neghiamoci il fatto che hanno più facilità a uscire fuori e in qualche modo fanno parte di una cultura dominante. L'afrofuturismo invece ha un po' gli occhi di chi si trova nella condizione di una cultura oppressa, migrata, deportata, schiavizzata, generalmente con un passato, anche un presente a volte, ma comunque almeno quantomeno con un passato di schiavitù, e che non vuole quindi rinunciare a dire la propria su come potrebbero o dovrebbero essere i futuri che ci aspettano. Quindi è come se in qualche maniera non solo la cultura bianca si è arrogata il diritto di scrivere la storia, molto spesso l'ha fatto, ma in qualche modo anche involontariamente a volte, però di fatto si è arrogata anche il diritto di scrivere il futuro. C'è una cosa interessante, secondo me, che appunto, se quando si parla in scrittori e scrittrici di fantascientifico. Si parte da basi occidentali. Mentre quando si parla di fantastico, è lì. Lì invece c'hanno una roba pazzesca loro. È vero, è vero. Quello fatica un po' di meno a uscire. Che piuttosto l'abbiamo copiata noi. Cioè tutto il voodoo, tutta la roba lì, è tutta roba che noi abbiamo copiato. È vero. Infatti, allora diciamo intanto che noi spesso parleremo di letteratura fantastica e spesso effettivamente associamo l'afrofuturismo alla letteratura, quindi alla parola scritta, diciamo. Come dicevi, fantascienza, ma anche e soprattutto realismo magico, quello che viene chiamato realismo magico, esatto. Poi lo vedremo, non è solo quello, ma insomma, il fantastico. Ma si tratta di una cultura che abbraccia anche l'arte, la musica. Oggi un po' ne proveremo a parlare, più che altro per quanto riguarda la musica, perché sull'arte io effettivamente confesso di barancolare un po' nel buio. Io sono un ignorante. Però ecco, effettivamente, così come... Beh, oddio, un po' ci arriviamo tramite i fumetti, forse, in effetti. Comunque, effettivamente l'afrofuturismo è un po' una cultura, una sottocultura, una controcultura, come la volete chiamare, però di fatto non si parla solo di letteratura, ecco. No. No, si parla anche di filmografia, tanto, anzi ora finalmente giusto. Cominciamo ad avere delle belle produzioni che già c'erano, ma finalmente arrivano anche a noi, sì. E approfondiremo più tardi, però parleremo in particolar modo di un film che tu hai visto, io ho visto solo il trailer, ma pazzesco, però in generale un excursus su veloce, su com'è la produzione cinematografica fantascientifica in Africa, in particolar modo, chiaramente, ribadisco, è un continente, quindi si parla di due stati in particolare, sì. Che sono quelli che hanno chiaramente delle risorse più ampie rispetto ad altri. Per poter concentrarsi non sempre solo sul cibo e sull'acqua. Quindi molto spesso l'afrofuturismo, per quanto riguarda i loro temi, effettivamente si interseca con il femminismo, il transfemminismo e l'ecologismo. Sì, sì. È una roba effettivamente impressionante, nel senso che penso quasi tutto, comunque una buona parte, una larga parte della produzione afrofuturista è in qualche maniera intersezionale e va a beccare anche questi temi. Sì. E, quindi la cosa anche interessante, che lo vedremo, che a me ha molto colpito, è che un po' i mondi che vengono descritti nella letteratura afrofuturista è come se fossero un po' sospesi tra un tempo antico e moderno. Vero. Lo vedremo poi in alcuni esempi che facciamo. È un po' sempre in bilico, no? A me mi è sembrato. Molte robe erano in un tempo che non sapresti definire. Sì. Con delle... sospeso quasi. Sì, sì. È molto onirico, molto indefinito in qualche maniera. E penso che sia una scelta anche stilistica precisa, obiettivamente. Certo, certo. E coesistono molto spesso elementi magici e animisti, anche perché molto spesso riferimenti sono quelli animisti, spirituali in senso molto diverso a quello a cui siamo abituati. E badate bene, non solo l'Africa centrale, ma anche l'Africa araba, che è quella, no? Tutta del nord e del centro, è un pezzettino del centro, diciamo. Anche quella araba è piena di no, lo so, Mille e una notte è un racconto fantastico, pazzesco, cioè, hanno anche loro un immaginario bellissimo. Eh sì, tra l'altro davvero, poi ce lo siamo anche detto a volte che dovremmo fare una puntata sulle Mille e una notte, perché anche lì è spesso stata ridotta, insomma un po' ridotta all'osso, ma in realtà sarebbe un mondo bellissimo da esplorare. Ora, se sei d'accordo, potremmo leggere questo pezzettino, che è un articolo breve che abbiamo trovato su Roots and Roots, che è, quindi Radici e Strade, che vabbè, è una rivista online che si può trovare interessante, tra cui c'è questo articolo che parla di afrofuturismo, scritto da Cristina Lombardi Diop. Si intitola Afrofuturismo, spazi, corpi, immaginari, estetiche, pensiero dell'afrotopia. Ve lo leggerei un po' velocemente, perché effettivamente meglio di noi può dare un po' di colori a quello che vi Cristina stiamo dicendo. Cristina Lombardi Diop, quindi è di origini africane, sì, sì, infatti allora, Diop, forse Senegal, non mi ricordo. Mi verrebbe anche a me da pensarlo, però vabbè. Sì. Per dire. In ogni caso, sì, è una persona che si è occupata spesso di studi postcoloniali, insomma, poi lo sentirete dalle sue parole, insomma, viene fuori parecchio il modo di pensare di questa persona. Allora, lei dice: l'afrofuturismo è un'astronave che dal presente viaggia nel tempo alla ricerca di possibili mondi a venire. Pratica artistica delle utopie future, l'afrofuturismo usa la fantascienza come mezzo politico per riprogrammare il presente. Al centro dell'afrofuturismo c'è un sapere afrocentrico, radicale, anticoloniale, che è anche alla base dei movimenti rivoluzionari panafricanisti e dell'intellettualità afroatlantica. Da Webb Du Bois, Earl C. James al Black Panther Party, da Leopold Sedar Senghor a Aimé Césaire e Patrick Lumumba e Frantz Fanon, vabbè, sì. Alcuni li conosco, alcuni no. Esatto, esatto, alcuni sono porte aperte, altre boh. Negli Stati Uniti l'immaginario è quello in the deep delle culture soniche, nere e urbane di città come Detroit e Chicago, che all'inizio degli anni 70 stavano scivolando verso il deserto urbano della post-industrializzazione ed erano apparentemente senza futuro. Da qui l'afrofuturismo emerge e si esprime attraverso le forme underground della cultura nera vernacolare nel suono funk psichedelico, ci arriveremo, e nelle copertine vinili di George Clinton e dei Parliament Funkadelic, che immaginano la mitica Atlantis in fondo all'oceano per un'intera nation under a groove, senza dimenticare che l'immaginario afrotecnologico arrivava già dalle esplorazioni soniche e visive extraterrestri del jazz di Sun Ra e della sua band Orchestra. Ora, questo prima infarinata, poi vi parleremo un po' meglio. In letteratura la sensibilità afrofuturista genera visioni alternative di imperi post-apocalittici nei romanzi di Delany, l'abbiamo spesso citato, sì, e di progenie cosmiche nelle narrazioni fantascientifiche di Octavia Butler, dove esseri nascono da incroci tra umani e insetti, tra umani e vegetali, alludendo alle possibilità di nuovi mondi post-umani e post-razializzabili da soggettività e corpi transgender e afro queer. Difficilissima parola. Che parola assurda, forse è un errore di stampa. Razziale abbia. Sì, sì. È impossibile da leggere, vabbè. Nel nuovo millennio tale sensibilità trova espressione nel lavoro di artiste afrofemministe che decolonizzano l'immaginario sessuale e razziale dell'America contemporanea, come Renee Cox, di cui Cristo Nero, la regina Nenni e le supereroine, supereroi, Super J e Super Ut sono tutti militanti neri in fuga dall'oblio della storia e dalla violenza degli stereotipi che consegnano inevitabilmente il corpo nero alla frusta, al linciaggio, al terrore e ad una produttività fisica e sessuale primordiale. Filosofia della disallineazione, l'afrofuturismo libera l'immaginazione dal cerchio alienante del passato verso una versione del sublime in cui il terrore e la bellezza diventano tecnologie dell'io creativo. Vi invito poi a leggere l'articolo completo, lo trovate, poi magari ve lo mettiamo anche sul nostro post della puntata di oggi. È un articolo che esplora un po' abbastanza esplicativo di che cosa si intende per afrofuturismo, ma soprattutto dà delle coordinate da cui partire, dei nomi da cui, se vi interessa, potete un pochino andare a esplorare. Sempre in questo articolo, qualche paragrafo dopo, ci parla anche invece del mainstream americano che va a, è quello che dicevamo prima, no? Un po' in chiave moderna di appropriazione culturale, il supereroe Black Panther ha disinnesca tutto il movimento Black Panther, che invece è stata una roba, sì, certo, violenta con le pistole, quello che vuoi, però c'era una situazione, c'è tuttora tra l'altro, una situazione tremenda. Dall'altra, appunto, questa Wakanda, no, che è nascosta dentro questa foresta, è proprio quello che di cui parlavamo prima. Appunto, un Atlantide che non si vede, che non è sott'acqua, ma è in mezzo, è nascosta in mezzo alle le infinite foreste del Centrafrica. E tra l'altro l'hanno fatto questo, la Marvel, in particolare Stan Lee e Jack Kirby, comunque l'hanno fatto nel 66, io questo non avevo realizzato. Comunque il personaggio della Black Panther l'hanno inserito tra i Fantastici 4 nel 66, che insomma era un momentino non proprio sdoganato. A pochi mesi dalla fondazione del Black Panther Party. Quindi insomma intanto ci avevamo visto lungo, evidentemente. Qualcuno direbbe magari che, non credo sinceramente che potevano averci pensato di poterci lucrare, perché erano momenti storici in cui come facevi a davvero che sei ingenuo. Ma guarda, secondo me invece paradossalmente è stata un'operazione di ingenuamente in buona fede. Sì. Volevano davvero fare un senza però se non ti levi il mantello del colonialista, quantomeno ti viene fuori qualcosa di così. Poi, per carità, è diventato anche un simbolo sicuramente, più però per gli afroamericani. Ma sì, ma poi era anche gli anni in cui, ricordiamocelo, c'erano tutti i movimenti di appoggio alle istanze afroamericane, c'erano anche tra i bianchi, c'erano a Hollywood, c'erano, ricordiamoci, Marlon Brando, tutto quei giri lì, che in qualche maniera effettivamente, cioè, ora anche lì non si può demonizzare del tutto, cioè poi giustamente come dicevi te il mantello del colonialista te lo tieni e te lo porti addosso come croce, però è anche servito effettivamente, forse almeno in parte, almeno un po', e quindi e forse è anche servito un po' il personaggio Black Panther, come dicevi, poi chissà. Sicuramente è quello che ha fatto in modo che si iniziasse a parlare molto presto di afrofuturismo, perché insomma molti riferiscono a tutt'oggi al personaggio del Black Panther del fumetto della Marvel come i primi vagiti dell'afrofuturismo, anche se appunto non era scritto dai protagonisti dell'afrofuturismo. Quindi se questa era una prima infarinata, io direi potremmo sentirci uno stacchetto musicale e poi ci addentriamo un po' meglio. 1,5 Wohamakulu. spalla. Questo potrebbe essere sia fantastico che fantascientifico, questa colonna sonora. Un po' sì. Vero? L'ho trovata proprio cercando colonne sonore di fantascienza in Africa e ho trovato questo pezzo qua, Delfina, Henny Becker, Temba African Tapestries. Pensa a te. Vabbè. Comunque... Dicevamo, allora, entrando un po' negli esempi, perché chiaramente possiamo solo farvi alcuni esempi che però possono essere un po' quelli che vi aprono un po' il mondo, ci aprono un po' il mondo, Omenana è forse la prima cosa da cui partire, è una rivista trimestrale di letteratura dell'immaginario, chiamata così, la chiamano così, quindi letteratura fantastica, distribuita online soltanto, che pubblica storie di scrittori africani e scrittrici africane o comunque provenienti dalla diaspora africana, quindi come dicevamo prima, in questo caso un po' entrambe, non soltanto diaspora ma anche di persone che invece vivono attualmente in Africa. La rivista è stata fondata nel 2014 a Lagos da due persone sostanzialmente, uno scrittore e giornalista, Mazi Nwonyu, io anche qua dico i nomi a caso, non Nwonyu. Li so pronunciare, com'è che si dice? Nwonyu. Guarda, com'è che lo sai dire? O stai andando a caso? Sì, no, sì, un po' a orecchio, perché ho a che fare con tante persone che vengono da questi paesi qua e la pronuncia è orecchiato, hai sì, sbirciato. No, poi chiedo sempre il cognome, quando chiedo il cognome mi dici come si pronuncia, non voglio pronunciare, o come si scrive, che voglio bravo. Io sto imparando un po' di cinese, un po' di vedi cioè un po' cinese. Meno come male. Si pronunciano, ecco. Allora sono contenti, perché giustamente se pronunciano male il mio cognome non è che mi offendo, reggio, però insomma, un po' mi scoccia, allora è giusto, no? Anche gli altri. Però ti userò come mio consulente di pronuncia, visto che faccio veramente schifo. E invece di, ora lo dite, Chinelo? Chinelo? Sì, sì. No, Chinelo. No, Chinelo, giusto, Onwalu. Onwalu, questo era più facile. Che invece è una scrittrice e anche co-direttrice della rivista Queer Anatema, altra figa. Rivista interessante da sbirciare. Allora, Omenana inizialmente era stata pensata per pubblicare prevalentemente racconti di fantascienza di autori nigeriani. Poi però in realtà si è aperta ai racconti di narrativa speculativa, chiamiamo così, di persone provenienti da tutta l'Africa e come dicevamo anche dalla diaspora. I racconti pubblicati niente, spaziano un po' tra i generi fantasy, fantascienza, horror, realismo magico, come dicevamo. E Omenana invece è proprio un nome che prende, cioè diciamo che è il concetto religioso delle tradizioni Igbo, quindi in realtà è un concetto Omenana che penso a me non dice niente, perché sono assolutamente ignorante in materia, però è credo difficilmente traducibile in italiano. Di questa rivista Omenana esiste un'antologia tradotta e pubblicata nel 2023 da Nero Edizioni, che quindi se volete un pochino farvi un'idea può essere probabilmente un primo ingresso nella letteratura anche attuale, contemporanea, afrofuturista. Poi come vedremo ci sono un po' quelli che sono diventati ormai dei classici, delle scrittrici piuttosto acclamate, piuttosto ovvie, però Omenana effettivamente può essere una porta d'ingresso per anche capire un po' quello che si sta attualmente muovendo, perché è di adesso, proprio esce in questi anni. Nasce appunto, dicevamo, a Lagos, che è Nigeria. Nigeria, che è un po' il centro culturale di questo genere di produzione, appunto dicevamo, sia filmografica ma anche di scrittura, che fa un po' da aggregante. Infatti dentro Omenana troviamo anche autori tipo del Botswana, come Trotrol Tsamaze, o Sudafrica, per esempio, Masande Tsange, un altro scrittore abbastanza famoso comunque. Quindi interessante. E la Nigeria fa un po' da questo appunto aggregatore. Da questo punto di vista, c'è un'altra rivista che volevo. No, rivista, scusate, che un'altra raccolta. Visto che la Nera Edizione ha pubblicato la raccolta presa da Omenana, vi è anche invece una edita da Future Fiction che si chiama Futuri Uniti d'Africa. È un'antologia, appunto. E contiene 18 racconti di fantascienza, proprio solo fantascienza, scritti da autori africani. Che si può trovare, appunto, anche in Italia. E dentro ci sono però anche delle scrittrici, per esempio, che invece pubblicano anche con Mondadori qua o altre grandi case editrici, tipo Nora Cap Jemisin, che ha vinto anche dei premi, svariati premi, e Octavia Butler, appunto, che invece è un nome che già ci diceva. Anche Jasmine, in realtà. Jemisin, in realtà, non, se sei nell'ambiente l'hai letto, perché ha scritto tanta roba e è andata anche molto bene ultimamente. Poi si è può, vero, anche, si può anche approfondire. Poi io ho letto un pochino, devo dire che no, come quando raccontavo della fantascienza cinese, che mi piace tantissimo, ci dobbiamo entrare, è un po' faticoso, sì, per noi, sì, anche per me è vero, pure loro un po' asciutti, un po' però appunto ti danno degli spunti, sia quindi tutte le culture che non sono quelle intorno a noi, ti danno degli spunti che fighi, ma proprio fighi. Sì, devo dire che effettivamente anche a me come stile mi risulta difficile entrarci, forse è anche comprensibile, non lo so, però gli spunti ne dà parecchi e soprattutto mi colpisce il fatto che ci siano dei punti in comune con molti di questi autrici e autori di cui vi raccontiamo nell'immaginario, cioè per esempio... A me viene da fare la differenza chiaramente con gli autori, certo, di fantascienza, di letteratura fantastica bianchi occidentali, che partono spesso da delle distopie, da immaginare anche delle non lo so, a raccontare della scienza che prende delle deviazioni che non si volevano. Ecco, in realtà io nella letteratura afrofuturista mi sembra aver colto intanto un anelito di libertà, nel senso che molto spesso si parla di immaginare mondi che ti diano più libertà di quella che attualmente, sì, hai. Sì. In un verso o su un altro. Vero, vero. Quindi può essere le questioni legate ai generi, quindi parlano molto di non binarismo, ma parlano anche di quelle che secondo loro sono questioni razzializzanti, quindi di non incasellare le persone in una categoria o in un'altra, ma in qualche maniera accettare l'ibridazione, la contaminazione, sì, mi viene da dire, anche se è un brutto, sì, termine, però insomma che ci si possa mescolare in maniera, sì, libera. Sì. E questo avviene su vari livelli. Anche con la tecnologia. Anche con la tecnologia, in qualche modo... Mischiarsi, dico. Eh sì, e lo vedono come una possibilità. Però mi sembra, ecco, mi è sembrato molto interessante il fatto che proprio va una ruota libera sull'immaginare delle possibilità. Sì. Su questo io vedo che la nostra, tra virgolette, letteratura sia molto più incartata. Sì, assolutamente incartata. È molto meno epica, molto meno grandi imperi, grandi eroi, molto più invece consapevole dei propri limiti, sì, e quindi riesce a parlare per certi versi molto più lucidamente di tecnologia rispetto, sì, a noi che invece ci siamo incartati, effettivamente, non intendo la letteratura, la produzione letteraria occidentale odierna di fantascienza. Eh sì, e lo vedremo. Facciamo un po' di nomi, così tu ne hai già fatti un po'. Sì, sì, certo. Sicuramente appunto Octavia Butler da citare, tra voi vi buttiamo una carrellata di cose che ha scritto. Ci sono vari cicli sostanzialmente, il ciclo dei paternisti, che è il primo ciclo che è una tetralogia, il primo con Seme Selvaggio, La Nuova Stirpe, Incidente nel Deserto e Pattern Master. E poi c'è il ciclo della xenogenesi, che già un po' ci dice un po' di cose, con ultima genesi, ritorno alla Terra. Vi leggo al volo, così per darvi un'idea un po' a caso, a infarinata, di cosa racconta Ultima Genesi, per esempio, che è uno dei romanzi di Octavia Butler del 1987. Dopo un olocausto nucleare che ha portato alla quasi totale estinzione dell'umanità, gli ultimi sopravvissuti sono stati salvati dagli alieni Onkali, che li hanno portati sulla propria astronave e mantenuti in animazione sospesa per diversi decenni. Le vicende narrate nel romanzo si svolgono quando le azioni degli Onkali hanno reso le condizioni ambientali sulla Terra nuovamente adatte al sostentamento di una popolazione umana e sta per prendere avvio il loro progetto di ripopolamento del pianeta. E qui inizia un po' tutto il romanzo, dove però appunto è interessante secondo me il fatto che molto spesso, questa è anche una costante in vari temi della letteratura afrofuturista, cioè queste creature aliene che in qualche modo sono sopra l'umanità, sono una cosa diversa dall'umanità, dalla razza umana, e sono di base molto spesso salvifiche, cioè in qualche maniera l'incontro con il non umano ti aiuta, cioè nel senso ti porta in salvo, cioè come in questo caso, che sono gli esseri non umani che salvano la Terra in qualche maniera e fanno in modo che possa essere di nuovo ripopolata dopo la sua distruzione. Quindi anche lì c'è una... mi è piaciuto molto, si ritrova spesso nella Butler, ma non solo in lei, questo tema del non è l'umanità non si salverà da sola, e forse gli esseri umani non sono così centrali, non sono così importanti, non sono così bravi, eroici, ma sono gli alieni e il contatto con queste altre creature molto diverse da noi, che ci porta a capire cose, a migliorarle e a popolare di nuovo il mondo, magari. Sì. Allora, Nora Keita Yemisin, che l'ho citata e l'hai citata anche tu, è considerata facente parte dell'afrofuturismo, è americana lei, è un'afroamericana però, con dei legami evidentemente molto forti, evidentemente dati da quello che scrive, però lei, cioè diciamolo, è statunitense, è nata a Iowa City, per cui insomma... Dicevamo giustamente molto spesso... Esatto, mentre ci sono altri autori, le autrici, per esempio quelli che ho detto prima, invece no, loro sono proprio di lì. Vivono là. Sì. E vabbè, già che ci sono, appunto, però Nora Keita-Yemisin ha dato un po' lustro dal punto di vista del far conoscere un po' il genere, perché ha vinto veramente svariati premi. Nel 2010 il suo racconto breve Non Zero Probabilities è stato finalista al premio Hugo e Nebula, che sono i due premi più importanti nella fantascienza, diciamo, che ci sono attualmente. Il romanzo di debutto 100.000 regni, che io ho, Lo trovai, fu candidato anche lui a Nebula nel 2010 e inserito nella lista breve per il premio James Tiptree Jr. Carino, si vede che è uno dei suoi primi libri, ancora appunto un po' confusionario per certi visti, però anche lì c'è tutta una serie di interessanti spunti, che poi non è lungo, quindi si può leggere con facilità. Nel 2011 è stata candidata al premio Hugo, premio World Fantasy, al premio Locus, e lo vince al Locus Award per il miglior romanzo, per il miglior primo romanzo, che era sempre appunto i 100.000 regni. Invece però poi dopo, attualmente nel 2016, esce il primo volume della sua saga, che è la quinta stagione, che ha vinto il premio Hugo, finalmente, e rendendola la prima autrice afroamericana a vincere un premio Hugo nella categoria di sempre. Sì. E poi dopo, beh, ci sono altri due volumi, Il portale degli obelischi e Il cielo di pietra, che completano questa trilogia usciti nel 2017-2018, che le hanno fatto rivincere il premio. La cosa interessante di questo ciclo è che parte tutto dall'idea di questo mondo in rovina. Come si chiama il pianeta Immondo, che praticamente viene a un certo punto arriva una frattura che divide esattamente in due tutto il pianeta. Immoto, sì, è vero. Immoto, brava, giusto, sì. Ecco, scusami. Sì, sì, sì, sì, molto bello questa cosa. E che chiaramente è una roba, è un problema. È un problema fisico, perché sputa fuori roba brutta, ma è un problema proprio per in generale, perché comincia la morte. E comunque anche la storia dei personaggi sono accompagnati dalla morte in tutte le sue varie forme. Quindi è una situazione di tragedie, tradimenti, di ferite a lungo sopite, ma c'è anche un po' d'avventura, c'è anche un po' di viaggio strano, diverso. Non viaggi nell'universo, ma comunque viaggi nel tempo e nello spazio in qualche modo, quindi è comunque fantascienza. Eh sì, è molto interessante anche questo approccio alla catastrofe, al cambiamento in qualche maniera, ma disastroso evidentemente. E anche lì ci dice molto su una cultura devastata più volte di continuo, che è abituata in qualche maniera al trauma continuo e perpetrato, e che però parte di questo trauma e anche di disastro è molto legato all'ambiente naturale, cioè nel senso molto spesso, e anche in questo caso, anche in questo ciclo, si parla molto di territorio devastato, quindi non soltanto gli esseri umani in lotta tra di loro, ma anche proprio catastrofi naturali, magari spesso dovute anche a interventi non proprio così naturali. Però ecco, sì, si ha la sensazione di un ragionamento molto interessante sul come si prova a vivere con la consapevolezza che da un momento all'altro ti arriva la sciagura, perché ormai ne hai viste altre quattro e quindi sai che la quinta può arrivare, e come ci si può lo stesso immaginare di sopravvivere e di immaginarsi un futuro. Che insomma sono riflessioni piuttosto profonde, piuttosto interessanti, secondo me. Sì, che in quei termini spesso noi non ce lo poniamo. Per niente. E sì. Quindi leggere qualcuno che se lo sta ponendo poi porta a tua volta a porti delle domande anche tu. Infatti, insomma, il cambiamento climatico in generale, la relazione con la natura è veramente molto presente. È presente sia, come dicevamo prima, con l'ibridazione tra tecnologia e natura, ma anche sia dal punto di vista meccanico che biomeccanico. Per esempio, la commistione con gli insetti, con gli animali, ma in particolar modo con gli insetti. Per esempio, l'altra autrice che tu citavi qui nel pad, non l'avevi detto ad alta voce, che è Ndedi Okorafor. Okorafor, sì. Lei è, per esempio, ha diverse queste cose, gli insetti ce l'ha. l'ibridazione appunto con gli insetti, ma lo stesso, tra l'altro, District 9, che non è una produzione, però è girato. Guarda caso, sì. Esatto, c'è questo, no? L'ibridazione proprio, o comunque gli alieni sono degli insettori. Sì. Sì, poi c'è molto spesso il giocare con l'identità, il fatto che l'identità non è mai statica, ma è molto già mutevole. Vero. Questo da vari punti di vista, fino ad arrivare all'identità appunto ibrida tra essere umano e insetto, tra essere umano e animale. E questo non è come dire, non è incredibile, cioè è qualcosa che in fondo non ti stupisce più di tanto, ecco. Certo, ci sono anche da noi casi di questo tipo, basti pensare alla Metamorfosi di Kafka, ma quanto ha fatto scalpore la Metamorfosi di Kafka? Cioè, quanto ci ha stupito? E il fatto che ci ha stupito è proprio perché non ci siamo... Cioè, non è un qualcosa che fa parte del nostro immaginario quotidiano. E, ecco, invece qua c'è un tipo di abitudine quasi all'ibridazione, vista anche come qualcosa di fertile, di molto interessante. Invece Kafka lì aveva chiaramente un tipo di ibridazione solo negativa per certi versi. Qua invece, ma lo stesso mi viene in mente il pasto nudo, cioè anche là tutta roba che però parte sempre da un malessere, da un logorio, sì, certo, magari anche psichedelico se vogliamo, però comunque qualcosa di molto tormentato. Mentre invece lo stesso cyberpunk è tormentato, è tutto molto. Ecco, invece qua le ibridazioni non sono necessariamente tormentate. Cioè, potremmo dire che l'Occidente problematizza la tecnologia. Perché è un problema? Perché non è controllabile, è andata fuori controllo, perché entra nelle nostre vite. Invece di qua è anche un mezzo di libertà, è un mezzo per viaggiare. E quindi è chiaro che la tecnologia vista in questo modo non è per forza tutto negativo, ecco, oscuro o... poi volevo dire un'altra cosa, non me la ricordo più. Però insomma, questa connessione con la tecnologia è fondamentale. Sì. Quindi, non lo so, se vogliamo fare un altro stacchetto, vogliamo un po' iniziare ad entrarci nella musica anche, cioè a raccontarvi un po' di afrofuturismo in musica, giusto perché poi magari vi faremo ascoltare qualcosa, non tantissimo, però qualcosina. Volentieri, tra l'altro lascio molto la palla a te, che mi sa che sei più esperta, mentre io mi tengo un po' invece sul cinema. Sì, per esempio partirei veloce da San Ra, che San Ra l'abbiamo, no, sì, l'abbiamo citato prima nell'articolo che vi abbiamo letto, è abbastanza famoso, insomma, però vi volevo leggere solo velocemente una dichiarazione che fece San Ra. Perché durante il college dichiarò di aver avuto un'esperienza extracorporea che poi l'avrebbe cambiato per sempre, e disse: mi trovavo in un pianeta che capì essere Saturno, mi avevano teletrasportato, avevano una piccola antenna sugli occhi e una piccola antenna sulle orecchie, mi dissero di non continuare a frequentare il college, se vabbè questa è una scusa di ogni studente. Il mondo stava andando verso il caos e il mio compito sarebbe stato quello di parlare attraverso la musica e il mondo avrebbe ascoltato. Questa cosa, vabbè, giusto per dire, San Ra era un personaggio particolare, però era piuttosto... cioè c'aveva un po' questa cosa, questo gioco che di base forse faceva, che non è l'unico. Altri sono i Funkadelic e i Parliament, che anche questi li abbiamo citati prima. Strafamosi, insomma, non c'è da dire molto, ma insomma nel 55 George Clinton fonda di base i Funkadelic e poi anche i Parliament, e lavorava lui presso dal barbiere, sostanzialmente da un parrucchiere barbiere dello zio, stirava i capelli ai giovani afroamericani, intanto per capire un po' il contesto, e lì proprio in questo negozio, in questo dal barbiere, si incontrarono e fu il luogo d'incontro di varie persone, musicisti, che danno luogo poi ai Parliament. Prima si chiamavano i Parliaments, che faceva doo-wop, una musica che era di base molto molto tipica degli afroamericani quel momento, degli anni 50, del soul, e poi più tardi invece dettero luogo ai Funkadelic, che questo fino agli anni 60, fino agli anni 60, ma insomma due formazioni importantissime che proseguirono parallelamente sempre con George Clinton, che di fatto è un po' la mente predominante di questi due gruppi, e per un grande successo, e di fatto iniziarono a giocare sempre di più non solo con la musica ma anche con i temi e con i testi, e facevano molto riferimento all'immaginario fantascientifico dell'epoca, anche nei vestiti, brava. Sì, erano molto così, facevano, e anche là si scherzava fino a un certo punto del fatto che le astronavi erano sempre state mondo dei bianchi, popolate da bianchi, era il periodo di Star Trek. Ecco, finalmente loro iniziano a popolare le copertine dei loro dischi, l'immaginario di come salivano sul palco, come si presentavano, come finalmente delle persone nere che vanno nello spazio, hanno diritto anche loro ad andare nello spazio e fare viaggi. Perché ho un lapsus, ma in Star Trek c'è qualcuno nero? Sai che non lo so, secondo me forse sì, c'era qualcuno, cioè, ma comunque era... Non è il capo, non è il capitano, non è il vice capitano, non è... È una figura secondaria. Al massimo sarà stato un tecnico di infimo livello, se non sbaglio. Io l'avrei messo all'epoca forse nella sala motori, tipo. Esatto, esattamente, esattamente. No? Cioè... Esattamente. Allora, invece, direi a cavallo fra le due cose c'è Saul Williams. Esatto, me lo lasciamo in fondo per quello. Non so se ci abbiamo anche un pezzo suo. Certo. Ah, che meraviglia. Allora, Saul Williams è una scoperta. Saul Williams è una scoperta che sinceramente io ho fatto ora, grazie alla preparazione di questa puntata, e mi è piaciuto moltissimo. È un... beh, una persona che ha fatto tantissime cose, non si può definire un musicista, no, né un poeta, né un regista, perché ha fatto tutte queste cose, yeah, anche un attore, tra le altre cose è protagonista di Slam, che è un film degli anni Ottanta che un po' ha aperto... Io l'ho visto, qual è? Sì, è quello che parlava forse per primo, o perlomeno l'ha portato al grande pubblico, la questione dello Slam Poetry. Ed era un po' le vicende di questo, sì, poeta che vorrebbe in qualche modo sfondare nel rap, diventare... e che però finisce invischiato in tutta una serie di cose che loro... Che, insomma, di un personaggio che gli viene cucito addosso, del solito che ha problemi con le sostanze, che vive nel Bronx, tutte queste cose qua. E che quindi tribola a uscire. Però per dire, di film ne ha fatti moltissimi. Ora io, poi ne parleremo, lui ci sono arrivata perché è il regista di un film di cui parleremo, molto bello, che vi consigliamo. E adesso ho detto, va bene, però questo qui afroamericano di New York, ma non è che è una fregatura, non è che è una sola. E invece mi sono documentato, ho visto un po' di interviste, è un bel personaggio, ve lo consiglio. Ha fatto parte di Occupy Wall Street, dei giri così. Tra l'altro ultimamente ha rilasciato tutta una serie di dichiarazioni, di interviste sulla Palestina, molto interessanti, da una prospettiva anche appunto di comunanza di persone che si sono vissute quindi il colonialismo. Perché? Poco ci manca, ha litigato moltissimo, diciamo. Personaggio piuttosto scomodo, molto rabbioso, lo vediamo, e vi consiglio di andarvi a vedere, e si trovano online i suoi live, in particolare ci sono dei live, hai visto anche quelli in acustica, secondo me sono bellissimi. Dove veramente, secondo me, dà il meglio di sé, molto interessante. È un slam poet molto agguerrito, molto efficace. Purtroppo la mia conoscenza dell'inglese è piuttosto scarsa, quindi posso godermelo fino a un certo punto, ma nonostante ciò mi arriva, quindi evidentemente se voi sapete meglio di me l'inglese, a maggior ragione ve lo consiglio. Allora, sentiamoci un pezzo appunto di Saul Williams in veste di musicista. Sì. A list of demands. I want my money back. I'm down here drowning in your fat. You got me on my knees praying for everything you lack. I ain't afraid of you. I'm just a victim of your fear. You cower in your tower praying that I'll disappear. I got another plan. Listen. suffering, a kinesia buffering. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and her diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth, and live on the district, got it, every belief. Calling the law, I'm fixing the draw. Alarm and team, what is it, season, call up a brawl. Calling them now, cause it's about to go pow. I'm turning all the flesh on all the ups and the downs. Call up the truth, because I'm about to break loose. We're taking that, cause then I'm breaking out of my noose. I got a list of demands, spinning on the palm of my hands. I'm on my diss and you got no right. Questo era appunto Saul Williams, tra l'altro non l'ho detto tra le varie robe, che è, tanto si definisce persona queer e molti dei suoi testi fanno, insomma, raccontano di questo e anche degli altri tipi di lavori, non solo quelli musicali. E ha lavorato moltissimo in Nine Inch Nails, forse l'avete notato anche da questo brano che vi abbiamo fatto ascoltare, si sentiva lo zampino. E quindi sì, tra le varie cose arriviamo al film Neptune Frost, che è il film che appunto di cui vi accennavo prima, che ho visto perché guardando solo il trailer dici vabbè, questo è bellissimo. Trovate su YouTube facilmente. Sì, sì, sì, sì. Neptune Frost è un film del 2021 ed è viene definito un musical di fantascienza, quindi già ho detto sì, è vero. Ho detto va bene, ok, questo lo devo vedere. Poi parla di sostanzialmente la trama è piuttosto complessa e non ve la racconterò tutta perché ve lo rovinerei, però di base gli elementi sono una miniera di coltan, ambientato intanto in Burundi, anche se in realtà è girato in Ruanda, interamente in Ruanda, ma una buona parte è ambientato in una miniera di coltan e è visto dal insomma, diciamo che i protagonisti sono minatori di coltan e un collettivo, chiamiamolo così, un gruppo di hacker di cui alcuni intersessuali e che di base cercano di hackerare il presente in cui si trovano. Quindi è estremamente un film estremamente politico, ha degli elementi che a noi ci fanno subito scattare dei campanelli, nel senso, quando si parla di hacking e di miniera di coltan, vabbè, io ho detto ok, questo film lo devo vedere assolutamente. Poi c'era l'elemento del musical, ho detto vabbè, ma loro lo fanno apposta. E effettivamente di per sé è molto bello ed è, appunto, c'ha tutti i temi giusti e trattati nella maniera giusta e con la giusta anche dose di incazzatura, perché è piuttosto arrabbiato. Ma la cosa che più le due cose che me l'hanno fatto piacere di più, uno è i costumi, che sono vero? Dei costumi pazzeschi, tutti palesemente autocostruiti con materiale di recupero. Tutto, è tutto quello che usano nel film è di recupero. Armi. Fra l'altro c'ha un... come dire... molte cose sono accennate, lasciate all'immaginazione. Non c'è nessuna pretesa di realismo. Cosa che me l'ha fatto piacere istantaneamente. Per esempio le armi, c'è un esercito dominante da combattere in questo film. E ci sono che è armato ovviamente, ma i fucili non sono veramente fucili, ma te ne accorgi dopo un parecchio tempo, perché comunque non è importante in fondo. Una cosa che ho notato, per esempio, si diceva di questa commistione fra tecnologia e esseri umani, no, che ci hanno sti chip attaccati sulla testa, che di primo impatto diceva vabbè, ma questa che raffazzonata è, e invece no, e invece sono fatti bene, reggono bene, hanno senso. Niente, insomma, mi ha colpito positivamente. Sì, è molto, come dire, c'ha un potente immaginario autoprodotto proprio, cioè nel senso gli effetti, i costumi, le scenografie, tutto molto... E come te lo immagini? Cioè, nel senso... A tratti è quasi teatro. È molto, sì, è molto teatro. E l'altra cosa che mi ha incuriosito moltissimo, mi è piaciuto moltissimo, è che ha una narrativa... molto strana, probabilmente simile alla letteratura, come dicevamo prima. È tutto molto onirico, è tutto questo tempo sospeso dove succedono le cose, non è che capisci bene bene, cioè a volte pensi di aver frainteso, succedono delle cose a dei personaggi e tu ti rimane un po' il dubbio di aver capito bene che quella cosa è successa, allora, come nei sogni, in vero. Qualche maniera c'è questa cosa del concetto di futuro, del concetto di... Che cosa vuol dire il concetto di futuro? Vuol dire che comunque tu ti metti all'interno di un fluire di qualcosa. Quindi metti il tuo corpo, la tua anima all'interno di questo fluire, che quindi poi ti porta a una consapevolezza diversa di quello che inizia, di ciò che finisce o di ciò che non finisce. Ho letto ora un romanzo cinese, che si chiama Oceano Rosso, che però mi veniva in mente perché appunto una delle cose interessanti è che appunto parla di, ne avevo già accennato, di questo fondamentalmente non si capisce veramente fino alla fine se è, no ma sì no in realtà sì, cioè non si capisce se è la Terra o se è un altro pianeta, però si parla di esseri umani e tutto parte dal fatto che gli esseri umani sono ritornati sott'acqua, va bene, a vivere sott'acqua, e quindi sono regrediti, sono... O sono evoluti? Già questa è una domanda o di fondo. O sono cambiati di base. Di base sono cambiati. Però no, in realtà c'è una regressione in qualche modo, perché tornano ad essere più animali, più legati alla mangiare, riprodursi e basta di base. E il protagonista di questa storia è qualcuno che invece è un personaggio che in realtà fa fare uno switch un po' alla razza, o almeno una parte della razza umana, proprio grazie alla concezione del tempo. Comincia perché... In fondo al mare tu non vedi le stelle, non vedi il sole, non niente, quindi il passare del tempo è diverso. E quindi il suo cambiare e rendersi conto che esiste un tempo che scorre e che tu sei all'interno di questo scorrere lo porta a portare delle innovazioni grandi all'interno della razza umana in fondo al mare. Ecco, allo stesso modo nei romanzi afrofuturisti il concetto di tempo è qualcosa di diverso. È vero. E allora il concetto di tempo in modo diverso ci fa per forza vivere il mondo in modo differente da noi. Ma infatti è proprio un'esperienza strana come film, nel senso che è un film che non ha un inizio e una fine, cioè, o meglio, ce l'ha e c'è anche una trama, non è che non ce l'ha. Certo. Però la vivi in maniera diversa effettivamente, proprio forse per questo fluire del tempo diverso che dicevi. L'altra cosa che è probabilmente un elemento straniante, particolare e che è molto creativo è l'elemento magico, fuso con la tecnologia, perché per esempio uno di questi protagonisti ha dei poteri telecinetici, comunque dei poteri magici di fatto, che vanno a impattare sulla tecnologia, per cui questo collettivo hacker di fatto le azioni di sabotaggio, perché fa delle azioni di sabotaggio grosse contro di base le Google anche e varie multinazionali della tecnologia, e le fa però attraverso la magia, ed è un come dire, un sabotare la macchina in maniera sì. Magica, però allo stesso tempo è cyberpunk e poi è però parte anche da una condizione di subire, cioè si parla molto della cioè le macchine loro ce l'hanno su tutto il corpo, i cavi loro sono cosparsi di cavi, di non a caso sono minatori di coltan, nel senso sono certo. Riferimenti molto precisi e quindi è una base di partenza di non una persona che in qualche maniera sente di poter dominare la tecnologia, ma di una persona che la subisce in primis e che prova a rivalersi attraverso la magia, attraverso qualcosa che non è umano, o perlomeno non è forse umano, o solo umano. E questa cosa qui dello scontro fra magia e tecnologia che si fondono, a un certo punto nel mondo di Star Wars George Lucas l'afferra. Ci avevo pensato. Proprio, sì, proprio in legame a delle letture comunque legate a afroamericani, per cui si inventa dei personaggi, c'è proprio questo pianeta abitato da queste streghe, che però rivaleggiano con la massima tecnologia, perché la loro magia è... Infatti c'è il detto, no, nel mondo delle scienze, it's magic until it's science. Giusto. Cioè, no? Finché non è scienza è magia, ma semplicemente è la stessa cosa in qualche modo. È molto interessante, dai, oggettivamente molto interessante. Ma anche secondo me, e poi tra l'altro, ultima cosa che vi dico, esteticamente è bellissimo, è proprio bellissimo. Sì, sì. Cioè, proprio c'ha dei colori meravigliosi, sì. Una fotografia proprio bello, bello, bello da vedere, divertente, quindi ve lo consiglio moltissimo, insomma, se non sarà capito. Allora, parliamo di cinematografia. Dicevamo già da prima che la Nigeria e Lagos in particolare sono un po' il centro africano principale, non l'unico, di produzione. Produzione si intende centinaia di film all'anno. Tanto che loro si fanno chiamare Nollywood, appunto in relazione ad Hollywood, a Bollywood, anche certo. Loro hanno una produzione talmente ampia e giustamente dicono che ci sia riconosciuto. È cresciuto tanto negli anni che è arrivata anche all'Occidente, per cui ora lo trovate su Disney Plus, EYU City of Tomorrow, Disney Plus. Ma non solo, c'è la collaborazione, la scelta di Halima, che è una produzione Netflix e UNESCO, che parla di una giovane donna che fugge da un matrimonio combinato con un'intelligenza artificiale. Quindi comunque interessante anche questa cosa, no? Il matrimonio combinato, che è una roba che in alcune parti dell'Africa c'è ancora, e l'intelligenza artificiale, che è un problema che per tutti, non è? Perché anche a Lagos è un problema. È da problematizzare, via, non un problema, è da problematizzare, ecco. Io sono super a favore, in realtà. queste produzioni mostrano l'emergere, appunto, del genere nigeriano con storie che combinano elementi tecnologici, appunto, e culturali, proprio quello che abbiamo detto finora, che si riversa sotto forma di filmografia. City of Tomorrow è una serie animata in 6 episodi che... Ah no, non è uscita ancora, scusami. Deve ancora uscire. Deve ancora uscire. Ad aprile, vedevo. Ad aprile, esatto, è ambientato su un'isola, in isola benestante e futuristica di Lagos, dove la divisione di classe è il tema centrale di questa serie. La scelta di Halima, invece, è un film di fantascienza, l'abbiamo detto, appunto. È ambientato in un futuro in cui la maggior parte dell'umanità è stata caricata in mondi virtuali. E da lì la possibilità di contrarre un matrimonio combinato. Ci sono anche altre produzioni, anche se meno specifiche. Esistono altre produzioni che potrebbero avere elementi di fantascienza, come Katope, un fantasy in lingua Swahili, e Chigogo. Questa è un po' la Nigeria. Però non è l'unico punto, come vi dicevo. Ho sbagliato mouse? No, non funziona, vabbè. Il Marocco, andiamo in Nord Africa invece, anche il Marocco è ha vero, una sua di questo produzione. Non si è parlato molto. Hollywood del Marocco, detta Quarzate, è diventata una destinazione per le produzioni internazionali grazie a costi inferiori, per intendersi ci vanno a girare i film di fantascienza quando vedi il deserto, spesso sono del Marocco. Perché costa poco, permessi facili, vasti spazi e c'è spesso il sole e quindi va bene, è un buon posto, e c'è lì l'Atlas Corporation Studios, che è uno dei più grandi studi cinematografici del mondo, che per esempio c'è stato il Gladiatore, ci hanno girato delle parti di Alexander, quindi insomma colossal, quindi non ha una produzione ampia come la Nigeria, il Marocco, ma è un posto dove si fanno film. Quindi dove immagino ci saranno anche molti interessi economici, perché comunque citavi grandi Sì, produzioni grandi produzioni, necessariamente. sì, assolutamente. È un modo per attrarre soldi in Marocco che poi Certo. finiranno in mano comunque Dai, dai ricchi dei marocchini, però, disgraziati. però va bene. E poi c'è il Ghana. Il Ghana è un altro posto emergente che fa tanti film. Si fa chiamare, infatti, la sua produzione si chiama Kuma Wood, Kuma Wood, sempre legata a Hollywood, bla bla bla. Insomma, è una produzione comunque significativa. Il Ghana ah, ecco il mouse finalmente. Niente, questo era un po' per dirvi i vari posti. Ci sta di andare a esplorare. Io consiglio di andare un po' a esplorare cose diverse. Sì, ma anche perché davvero ci dicevamo, l'abbiamo detto spesso, è un po' effettivamente una nostra fissa di questa trasmissione. L'immaginare futuri, se te li immagini sempre da un unico punto di Esatto. vista, che palle. Cioè, riuscire a prendere dei pezzetti qua, dei pezzetti là, secondo me è molto interessante. Sì. E chiaramente, siccome noi spesso parliamo di fantascienza, poi in fin dei conti, la fantascienza parte dal descrivere l'impatto che ha la tecnologia con gli esseri umani, cioè sugli esseri umani. E chiaramente a seconda di dove vai l'impatto è diverso, il punto di vista è diverso, appunto come si vedeva ora, in alcuni casi la tecnologia l'hai sempre solo subita, in alcuni casi hai avuto magari l'illusione di poterla dominare, insomma, a seconda di dove, in alcuni casi magari è stato un modo per liberarsi, quindi. Ognuno è un tassello, per cui penso che sia molto interessante. E soprattutto è interessante vedere come comunque si fa spesso ricorso alla fantasia, al mondo fantastico, per descrivere poi anche il presente e quello che non ci piace o quello che vorremmo, perché poi spesso in fondo di questo si parla. Certo, sì, quindi possiamo dare, così tagliando un po' con l'accetta, una definizione sul fatto che la differenza fra la fantascienza occidentale e quella invece afrofuturistica è un collegamento con la tradizione culturale e spirituale molto più forte rispetto all'Occidente. Ah, sicuramente. Non solo all'Occidente, direi piuttosto ai monoteismi, perché Sì. in questo caso la spiritualità fa tanto. Tutti i paesi che hanno una spiritualità invece molto più animista, hanno delle differenze, hanno una marcia diversa. Hanno una marcia diversa, meno asettica, più profonda, quindi magari può risultare più sballottante, ma più profonda. È vero, è sballottante, è proprio un termine giusto. Sì, non ti senti, non Non ti sei sembra nel di seguire tuo. una strada dritta, ma Sì. tutto sali, scendi. Non ho detto una cosa, la volevo dire prima, poi mi sono scordato. Se volete leggere fantascienza afrofuturista in Italia, che cosa si può leggere? Abbiamo dato le due grandi raccolte, Punti di quella di partenza, punto sì. di partenza, ma se volete dei consigli ci sono, vabbè, Future Fiction come casa editrice, vi dicevo, che pubblica appunto diversi autori, tra cui questo Futuri Uniti d'Africa. Poi abbiamo la Nero Edizione, che abbiamo detto Omenana, ma c'è anche altri due consigli che sono Zona 42, piccola casa editrice che ha pubblicato altri titoli di fantascienza africana, e Pidgin, che ha una collana proprio dedicata chiamata Mangrovie, che dà spazio proprio a voci africane. Quindi Future Fiction, Nero Edizioni, Zona 42, Pidgin. Sì, anche perché davvero, purtroppo, cioè, come abbiamo detto, no? Octavia Butler scrive negli anni 80, adesso inizia a essere tradotta, nel senso che sì, Sì. un po' di più, cioè da qualche anno, però insomma, è da poco che si possono finalmente leggere anche nella nostra lingua queste traduzioni e queste voci, quindi insomma, approfittiamone e proviamo a capire. Assolutamente. Beh, direi che siamo in chiusura. Sì, abbiamo detto grandi cose alla fine, dai, Ah, tante cose. sì, tanti bei discorsi. Tanti bei Quindi, in chiusura, vi diamo le coordinate che non vi abbiamo dato finora, in effetti, di Radio Wombat, radiowombat.net, il sito da cui probabilmente ci state ascoltando. 13:59 la frequenza in onde medie. E niente, poi.